anche se volti pagina, la vita è sadica, buca come soda caustica, calmo come chi sta in coma, poco calmo come chi sta in coda. Dimmi cosa c'è più là nell'ultima molecola, nell'ultima risata della frase più ridicola. Dimmi cosa mi rimane, squaglio come rame, ramo che mi tiene retto solo dalla fame. Ho sette chimica, mente predica, mente non vale a niente. Lentamente la gente si affeziona alle visioni contraffatte a mente. Bullshit a chi non c'è qui, penso che non c'è più tempo, qua marciano zombie. La vita che ti guarda fredda come una puttana, mentre fotti le ti squadre, portafoglio non ti amava. Chiama benedette quelle porte che non vuoi aprire, io mi perdo per potermi ritrovare. Tutti quei concetti che non puoi capire, che anche se ti sforzi rischi di impazzire. Siamo a volte incerti, normali come pochi, assuefatti dalla vita come tutti quanti. Prendi il tuo biglietto, stai pronto allo spettacolo. Il primo atto è quasi sempre quello più ridicolo. Il più contento con la faccia triste, vive dentro un social, crede alle riviste. Sto con chi insiste, sai quante ne ho viste. Non ci trovi mai il mio nome dentro quelle cazzo di liste. Chi non trova un senso, chi col bon poi l'ha perso. C'è chi ama la riga, ma la sfiga se l'aspira, basta poco e perdi la tua linea guida. Aspetto che si faccia l'alba, riflesso di luce sull'ambra. Aspetto che si faccia l'alba, insetto rinchiuso dentro una crisalide d'ansia. Chiedimi perché lo faccio, chiedimi perché ho le mani calde dentro come il ghiaccio. Chiedimi perché mi faccio, chiediti se amore è solo un altro taglio sul tuo braccio. Aspetto che si faccia l'alba, riflesso di luce sull'ambra. Aspetto che si faccia l'alba, insetto rinchiuso dentro una crisalide d'ansia. Chiedimi perché lo faccio, chiedimi perché ho le mani calde dentro come il ghiaccio. Chiedimi perché mi faccio, chiediti se amore è solo un altro taglio sul tuo braccio. Senti i commenti se poi ti distingui, sono contenti solo se ti estingui. Sono contenti solo se ti vendi, qua vinci se finta la roba che spingi. Solo con me non ce la faccio se sono con te, mi sento saggio se sono egoista per necessità. Ogni mio difetto è una qualità, qua è presente tutto tranne l'umiltà, la volontà, la caparbietà. Ogni passo è rimandare la caduta, ogni azione fisica la mia disfatta. Limita la notata, mente poco equilibrata, macchiata del tuo sangue mentre piangi disperata. Il presente vivo quindi io sono già morto, vivo nel passato, quel futuro è troppo corto, troppo contorto, so che ci ho torto. Ho avuto già una chance ma non me ne sono accorto. Il popolo qua vuole solo pane e giullari, si sente unito solamente per i mondiali. Gode quando vede che la gente non si tiene a qualche cazzo di attentato sopra i telegiornali. Tutti che hanno perso i loro ritmi circadiani, tutti strani, tutte vittime dei vizi che gli portano lontani. Le aspettative uccidono i miei compari, tante delusioni, tanti piani invani. Riempiono le teste di pensieri disumani, morti sottomessi, niente partigiani. Accumulo la merda fino a che la rigetto, intanto bevo liscio fino a che mi confondo. Tanto non ho voglia di rifarmi il letto, immagino se voglia di cambiare il mondo. Aspetto che si faccia l'alba, riflesso di luce sull'ambra. Aspetto che si faccia l'alba, insetto rinchiuso dentro una crisalide d'ansia. Chiedimi perché lo faccio, chiedimi perché ho le mani calde dentro come il ghiaccio. Chiedimi perché mi faccio, chiediti se amore è solo un altro taglio sul tuo braccio. Aspetto che si faccia l'alba, riflesso di luce sull'ambra. Aspetto che si faccia l'alba, insetto rinchiuso dentro una crisalide d'ansia. Chiedimi perché lo faccio, chiedimi perché ho le mani calde dentro come il ghiaccio. Chiedimi perché mi faccio, chiediti se amore è solo un altro taglio sul tuo braccio.